incidente, perché è che è appena andata via, se no te la facevo sentire. Tutto lì, ho già chiuso perché devo andare a prendere. Dai, ti ringrazio ancora per avermi rilasciato il microfono. Ci sentiamo nel prossimo, vi saluto tutti circolarmente, dai, a stasera virtualmente, riprendi e fai girare tu qua. Buon pranzo, buon tutto, saluti a casa e ci sentiamo, dai. Avanti, doppio notte, dove sei? Sembra così giovane, ma grazie a Dio per 37 minuti ancora. E ancora me per vecchiare, va, se giovane non sempre, sì. Gaffa, vai, a 100 anni, ci sentiamo, vai, a 100 anni, alle prossime, va, buona carica a tutti, io sto andando. A stasera, ciao. Ciao già, ti ringrazio. Noi ci sentiamo dopo che scendo giù, metto qualcosa sulla graticola. Anch'io chiudo e dopo quando molto probabilmente riprendo con la lingua un po' più intrecciata comunque. Anche chi cammina è buon avvero. Ok, dai, vi auguro buon pranzo a tutti e io passo in QRT. Claudio, per te il microfono, ci sentiamo dopo, si accendi, mi fa piacere se ci sentiamo. Ok, anche a te Salvatore, Gianni, Giulio, mi ha chiuso. Alle prossime, io passo in quel rettango, per te il microfono Claudio. D'accordo, ciao a Gianni Doppio Roma, ciao a Giulio, ciao a te Massimiliano, saluti a casa, baci, abbracci, lodi e squisitezze. Ci sentiamo più tardi se coincide. Io poi con stasera ho chiuso perché da domani mi traccio da stasera. Mi trasferisco a Alghero. Va bene, e quindi avremo modo di salutarci, comunque non ci sono problemi. A te Salvatore. E cappa. Ciao Giulio, Gianni e Massimiliano. Avete già i piedi sotto il tavolo, per cui non vi disturbiamo e non vi tratteniamo oltre. Salutoni a tutti. Perché ti trasferisci ad Alghero? Per il Capodanno. Aspetta un attimo, fai! mi mancava! Ciao, amore mio, un bacio grande, stai bene, ti dà, fai la barba, mi! Oi! Guarda, ti ho sentito, non c'è fare la lente! Aspetta prima di andare a nonna, che lo devo salutare, avanti! Comunque, se sia anche il giorno di Capodanno di Alghero, fatti sentire che io sono lì! Sì, io mi trasferisco domani! Domani mattina per mettermi a lavorare per modo di dire, perché ci siamo organizzati per farci un po' di auguri tutti quelli che associo, poi vado direttamente a Alghero, rientro il 2, va bene, sì, sono lì, quest'anno ne approfittiamo, la vecchia non ci va e quindi ne approfittiamo. Va bene, un abbraccio a tutti di nuovo, a te Salvatore. Ciao Massimiliano, ripeto, ciao Giulio e ciao Gianni, buon tutto. Quindi ti trattieni qua fino al 2, così? Sì, beh, c'è un po' di combattimento di Alghero, ma non siamo in tanti e siamo un po' divisi quest'anno, però vabbè, quelli che ci sono, c'è i fuochi, c'è musica in piazza, c'è tutto, poi il problema di non viaggiare per me è una cosa che viene molto molto bene, e tutti gli anni di qua e spostati a destra e a sinistra, e quindi quest'anno va bene così. E tu e non Moses? E io sì, no, non andiamo da nessuna parte. Quest'anno abbiamo fatto sia il Natale che il Capodanno, faremo qua. No, ci riposiamo stavolta. Riposo ci vuole. Però unire un po' le cose, noi siamo un po'... separati, diciamo, perché Natale eravamo un po' tutti assieme, però Capodanno facciamo alla Romana, ognuno per le parti suoi, ma alla fine a me mi va bene così perché ho tutto a disposizione, non devo stare lì, capito? E quindi sorelle, nipoti e bene e poi va. Però diciamo io va bene, lì si sta bene, anche perché bene a Roma lì, capito, lo so, fatto. Se non c'è la casa non devo lasciare la parte. Infatti, cioè, vi hanno delle comodità e va bene, e viene bene usufruirne e utilizzarle. E poi se si riesce a evitare di viaggiare, tanto meglio. Io viaggio a lungo, già va bene. Sì. Sta piacendo questa modulazione? Sì, certo. Questa sono con il col presidente. Ma io te lo sempre detto, tu non la pizza, io invece ho un microfono, se ci riesco a appoggiarlo, mi sta venendo un nuovo la camera, allora qui qua a terra. Vedi, una cosa che dovrò fare invece è mettere predisporre un codino e l'MC60 per questa radio, perché penso che sia un abbinamento fenomenale. Cosa hai sentito il mio o cosa vuoi capire? No, beh, una cosa mi sembra da un annetto buono, che ricordo che avevo sentito a te, a Massimiliano, che a qualche un altro, insomma, comunque che avevate già fatto le prove con l'MC60 e col presidente, che usciva bene. Però siccome mi sono oramai disabituato a tenere la portante premuta per tutto il passaggio, perché oramai lavorando con le cuffie l'aziono con il pedale, con il piede, per cui non mi sono un po' disabituato, mi piacerebbe, stavo pensando a un sistema dove tenevo premuta direttamente la portante, ho pensato subito all'MC60 e tutto sommato, rivedendo quelli che erano stati i vari commenti, penso che sia un abbinamento riuscito e che si può fare tutto lì. Esatto, io l'ho fatto con il presidente, però più che dell'MC80 va meglio l'MC. Cioè, l'MC60 va bene, l'MC80 c'è una spinta un po' in più e ti posso dire che va molto bene. Ho sentito Sandro che l'ha abbinato l'MC60, ma non mi piace sinceramente, molto, molto chiusa, non ha quella forza che ha l'80, però va molto bene, quindi se lo provi va bene. Quell'abbinamento l'ha sperimentato Massimiliano. Io l'ho messo in atto e non ho avuto problemi. Ok, microfono per Gianni, avanti. Scusate un attimino solo, ho cambiato la batteria del microfono perché io mi stavo andando bene. Come sta uscendo adesso? Una grande, una bomba. Va bene. Comprate dai cinesi 3,50 l'una le batterie, che costano 7 euro nel di lui. Non lo sapevo, l'unica cosa ci può comprare dai cinesi sono le batterie, già io le prendo a pacchi, anch'io. Quella da 1 e quella da 1,5 per i telecomandi, per le cose, e funzionano bene, certo non dureranno mesi e mesi, però hai speso sempre la metà dei quattrini. No, queste sono Duracell, c'erano l'espositore della Duracell, sono Duracell queste batterie qua, quindi non sono batterie da prezzo. Addirittura le ho misurate a volte essere state da 11,8, più superiore a quelle che compro normalmente, che sono 9,8, comunque addirittura è 11,8. Sì, è alcalina, quello è. Le loro batterie non sono Duracell, però sono alcaline e funzionano. Funziona molto, molto bene, poi quando non ce n'è più pazienza. No, tornava benissimo già, tornando benissimo. Sì, perché stavo facendo quel rumore strano, il microfono, ho detto sicuramente la batteria, prova a cambiarla. Comunque, dove c'era l'ex mercatone, in quel capannone celeste? no, c'è l'espositore della Durace, c'è la batteria che vuoi, tutte Durace. Non so per ora, ma c'è uno da quell'altro, vado a quello lì. Va bene. Salvador, a te. Ah, accendimi il presidente, fammi un passaggio, ti viene bene con l'MC 80. Sì, come sto usando io. Buonasera. Saluti. Sei con quello adesso? Certo, ci sento con quello, ma veramente senti io. Ah, perfetto. Avanti il break, buongiorno. Sei in compagnia di Salvatore, di Claudio e di Gianni. Buonasera a tutti, buonasera ai auguroni, Buonasera, Eugenio B2 da questa parte, buonasera. Ciao Eugenio, ben sentito, cordialità anche a te, tanti auguri che ti ha cambiati, a te famiglia. Ci sono un sacco di vecchi, un sacco di cose, io vi saluto tutti che sono rientrato adesso. Auguri a tutti di buon anno se non ci ho messo a sentire. Salvatore, Gianni, dai, il compito a voi di far entrare i break e così. Sentite Eugenio, ma molto molto basso, arrivi qua, boh, sei anche satura, non capisco perché, vabbè. Comunque, Eugenio e Salvatore, vi prendete voi, fate entrare i break, per me QRT è pronto al pranzo. Ciao a tutti, a ci sentire, KK. Ciao Claudio, tanto auguri anche a te, se non ci sentiamo con QRT e buona carica. Avanti, se c'è stato un break, avanti. Ciao Clark, ci sentiamo eventualmente più tardi se coincide, buon tutto. Grazie degli auguri preventivi. Era B2, ciao B2. Sempre qua, buonasera. Che transito, ciao Gianni, buonasera anche a te. Qua che transito sulla 131. Capa, io vi saluto, l'abbiamo chiamata a mangiare, salutiamo tutti, ci sentiamo stasera. K, anche io, siamo tutti quanti in chiamata. Salutoni B2, anche io devo andare a fare carica. Ciao, stammi bene, ciao Gianni e ciao a tutti quelli che sono in ascolto. Ciao B2, buon proseguimento. Ci sentiamo, se non coincide buon anno a tutti ragazzi e buon pranzo. Ciao ciao. Ciao ciao. Qualche cosa da fare, qualche ritocco là. Ho messo nel tubo, l'hai fatto dritto così. E poi ho fatto uscire il filo. Si è attaccato al palo. Quello che ha detto prima gli ho messo solo che ha messo il mio tipo, ora va bene, sia di segnale che di radio. È la pratica dove l'è beccata così in fretta. Ah, il tubo, dico, il tubo in plastica ce l'avevi già. No, poi c'è gli uffici da pensare. Vabbè. Quella casa lì adesso è in affitto, sì. Sì, è una casa, diciamo, grande. Ah, vabbè, già ci sta bene, di là. Thank you. la Rustit, non è Bocco. Poi sono umile quelle case, no? No, lo vedo io che era fatto. Magari l'acqua del fatto perché non. E prima così le facevano, facevano la parete in coso, in paglia pressata. No, io ero al terzo piano in cui sopra di me c'era un altro, però il suo sito è fatto come le case. Se fa il gaggio è varaduto. Vabbè che i pesciti durano di più, quelle che hanno fatto prima che non lo fanno. Vabbè. Ma comunque anche a casa di mamma, Sacro Cuore, mi ricordo che il primo periodo che avevano preso erano case popolari. E mamma l'aveva comprata da una che se ne stava andando e avevano comprato i contanti e una volta è salito sul tetto questo qui per mettere l'antenna, il tetto per intenderci c'aveva la bottola, poi ti dovevi dare uno slancio per salire, c'erano due tavoloni dove mettere i piedi sui tavoloni, perché se tu li mettevi fuori era tutto il coso in paglia, c'era, no? E tutta la parte di sopra, il soffitto che era in paglia. E se ci mettevi il pesce scendevi, non è sceso questo tipo che sta in casa. No, c'era proprio questa paglia pressata era. Infatti poi aveva chiamato le case popolari, mia madre si aveva rifatto fare tutto quanto normale come le case di adesso, là. Mi ha fatto tutti i pezzi in paglia, tutti la cosa di paglia, l'ha fatto come tesi d'occa. Diciamo che lei lascia sempre il tempo che trova, dipende come sono tra voi. Se sono di quelli tipo quelli delle ferrovie già dura adesso ben di bene. E stanno anche puzza di nafta, boh, non lo so, sì, sicuramente qualche cosa gliela mettono per tenerli in vita. Ma quelli lì li aveva buscati un amico mio per farsi nel terrato, lui era in mansarda, si aveva fatto la tettoia con quelli lì, li aveva buscati, non mi ricordo chi. Cazzo, ma sono duri, sono pesanti. Era, non lo so se li ha dati in te, mi sono colpi perché li tagliano, ma prima di tagliare ne sono lunghi. Magari è scappata qualcuno, magari qualcuno di campagna che non ha fatto nulla dal microchip, non gliene fanno, capito? No, ma è roba di una cosa, c'è l'operone per niente, denuncia il ritrovamento, così almeno sei pulito, nel senso che se no poi magari quelli denunciano il furto del cane, capito? Tu denuncia il ritrovamento, questo cane qua, così se poi il padrone lo cerca sa dove trovarlo, dai. No, ma il veterinario mi ha detto che siccome è stato un ricuscito, ma è un ricuscito, che c'è lui lo fece fare qualche cosa, è importante perché è un ricuscito. locali, tutti quanti devono essere muniti di microchip. Lo so perché. Dove faccio servizio ci sono le guardie zoofile e tutti i cani devono avere il microchip. Però la prima cosa che fanno, c'hanno una macchinetta per controllarlo, per vedere il microchip. Capito? E allora non è stato nemmeno microchipato, quindi te lo fanno gratis. Non lo so, mi devo informare, ma penso che sì, mi hanno detto che anche lì ha prodotto. No, questo qui è quello che ha fognato, c'è crack, mamma mia. Capì? No, oggi è crack, si attacca le orecchie e sta bagliando, mamma mia. Che anche a portatore sta dicendo? Che anche a portatore, dice, una volta a mese, non so dove si può accedere, che mi fa, che mi mettono già. Però c'è anche qui a cioè sarei stato profilato come pare che sia via Nandausi. Ah, sembra che lei non per pulire a me. Ha pagato. Faglielo così sei tranquillo. E tu a caccia va. No, no, non ci faccio. Non sono trovato. E vabbè, veramente. Uno può anche avere la passione, magari. Nel momento può non poterlo rinnovare, ma poi se lo rinnova quando vuoi. Sì, ma io la città perché? Perché devi camminare un bel. Saltare muretti, fare e diciamo che il movimento è. Sì, da questo lui da fuori, a me piace il mare. Ah, ci sta per scoprire. Sono le priorità nelle cose, no? Quando si possono si fa, se non si può fare lo si fa. Ma che Gianluca è già? No. Sì, che c'è Luca, vai. Lo senti Luca? Come gli ha detto Giulio sta sparando un bel bene, perlomeno di qua arriva bene, poi non lo so se negli altri punti della città si faccia sentire, perché il dipolo devi stare sempre orientando le facce delle luci, Giulio gli ha detto di fare così e in effetti sta arrivando benino, diciamo meglio di, molto meglio di prima. Non le trattiamo fuori, non è quello il problema. Avanti. Arrivo prima di Luca e in linea d'aria. Io sono dalle parti di Gabaldella, lui invece è al Canada. Ma io sono più vicino a te, non più in alto, forse più in alto lui di me, ma tu sei più vicino a me, capito, in linea d'aria. E nulla di che, sono lì abbasso qua. Ok, niente di che. Sto aspettando un richiamo al lavoro, va a prendere i primi di gennaio. Adesso ho un effetto, mi dà le spalle. Quasi viene troppo di lavaggio, no? Capito? Ho finito al mazzo. Ma 6 mesi stai bene. E la ti tocca. Dove sono 6 mesi? Se entri fisso, lì stai bene. Sai, bene, va bene, bene, bene. Credimi, bene. Il fatto che c'è lavoro, l'assistente sociale ha detto che non era posto per lui perché come ambiente non è di più raccomandabile, ci sono tossici eccetera eccetera. Ma c'è, se lo basta metterlo nel, così, se basta metterlo nel, nell'edilizia, mica detto tossici, ma diciamo che sono esclusivamente cazzate, perché l'assistente sociale se ne frega i coglioni, scusami il termine. Perché loro stanno bene, non gli mettono i soldi, però chi ha bisogno, non è che li aiutano, capito? E quello è il problema, già. E anche lì si fa base di conoscenza sicuramente. Negativo, no, no. Quando ti spetta, di diritto. Certo, se fai un anno e poi vai di nuovo, c'è gente prima di te, devi aspettare. È come al comune, fai 6 mesi, poi aspetti, fai 6 mesi, poi aspetti. Questi posti riprendono, prendono gente con seri problemi di droga, gente che è stata dentro per diciamo redimerli, e magari le persone brave possono rimanere senza lavoro, capito? Pigliano i dossi, pigliano i delinquenti e le persone brave rimangono senza lavoro. Ma per carità, va. Allucinante. Beh, vabbè, comunque, il problema è che devi aspettare. Tu conta, io ho fatto domanda ad agosto, ancora sto aspettando, ho fatto le visite mediche e sono idoneo per quel tipo di lavoro, ok? Ho fatto una prova di sicurezza, mi spero un attestato che dura 5 anni, e ancora niente. Non so, ancora quanto dovrei aspettare, Gianni. Non lo so, mentre io sono sano, non sono letusico, né alcolizzato, non si punta, ma deve essere froscio, deve essere alcolizzato, tossico, la di via. Yeah. servizio. No, devi lasciare il rito, avanti, tu devi stare con il Casali. Casali. Dico, è preso Casali. Sì, l'affitto, c'è che l'affitto. Può vivi, sì. Ho un periodo brutto, brutto, brutto. Quanto paghi? 4. Cazzo. Allora, è grande almeno? Sì, è un po' questo che mi sta fanno. La casa è questo che adesso io sono quasi una cosa per me. E là, non è tutto il mio conto. Se è claro, non ne ha voglia, ci facciamo un saltino, ci prendiamo un caffè e tra 10 magari, il 5 no, al 10. Ciao, anche te, però capato. Ciao a tutti, buon divertimento, infatti spostatevi un po' al 10, così impegniamo anche il canale 10 e abbandonate un attimo i giurichi. Va bene, ciao a tutti. E al canale è più tardi, da dopo, non ho giocato. E sono da ieri, mi sono formatato il computer, va, a giorni da rimane a di notte tardi, addirittura con un mal di testa, guarda, stavo crepando. Però ci sono riuscito, là, piano piano.